Normalmente tutti quanti abbiamo necessità in un congresso di portare proposte. La relazione della Rosina, su questo si discute sempre all'interno di un congresso, corposa, cercando di trovare tutti gli spunti possibili e immaginabili da darci, ma io l'ho trovata molto completa. Però l'ho sentita poco dibattere all'interno di tutti i nostri interventi. Io credo che quello che sta emergendo dal nostro gruppo dirigente sia una forte contraddizione di quello che cerchiamo, quello che vogliamo e quello che vediamo. Mi spiego meglio. Abbiamo discusso molto del problema dei servizi. Ognuno di noi è arrivato qua e abbiamo un problema di servizi. Nella zona, la zona è importantissima, partiamo dalla zona, quello che la Rosina dice fortemente come pensionati, vogliamo fortemente il territorio, fortemente la partecipazione, fortemente i lavoratori e i pensionati vicino a noi. Poi all'interno di una zona ci ritroviamo con delle situazioni diverse che forse nessuno di noi vuole, nella nostra contraddizione non capiamo. Allora noi siamo sindacalisti, pensionati, poi c'è la categoria che è sindacata degli attivi, che è assente, e poi dico perché. Poi c'è un istituto nazionale di assistenza sociale, l'INAS, che ha un contratto privato, ha un contratto, poi che è affiancato da un servizio che fa il servizio fiscale, che è una società. Allora la contraddizione all'interno della zona c'è, perché i portatori di interessi sono tre diversi: c'è il sindacalista, chi è che deve fare l'impiegato e chi deve dare risposta al proprio capitale. Cioè, allora su questo cominciamo a fare una riflessione. Se si fa una riorganizzazione si parte da lì, la riflessione deve essere lì. Voglio la zona fortemente partecipativa e fortemente, però non posso chiedere a una persona dell'INAS che lavora dalle 8:30 del mattino fino alle 6:30 di sera, front office con 25-26 persone, cioè, ma sai, è un iscritto, aspetta un attimo, parlaci un attimo. E quella ti dice, scusa, al di là di che alle 6 devo andare via, sono le 6:30. Oppure il caso, dice, abbi pazienza, guarda, c'è una povertà all'interno di questa famiglia, hanno la pensione sociale molto bassa, la vivono con 500 euro al mese e 7,30 costa 17,50 euro. E vabbè, ma si può discutere? No, mi hanno detto 17,50 euro. Allora questa è la contraddizione, queste sono le nostre contraddizioni. Partiamo da un presupposto: la nostra riorganizzazione deve abbattere queste contraddizioni, se no noi all'interno delle zone la difficoltà di interloquire col nostro iscritto diventa sempre più difficile, perché sì, nelle nostre zone vengono le persone, ma partono prima dal presupposto, la loro necessità, la loro risposta. Ho ancora 3 minuti. Guardate, ho sentito poco parlare dell'evasione fiscale e non ho sentito per niente parlare della corruzione. Certo, noi abbiamo fatto una bella codice etico, il nostro codice etico all'interno dell'organizzazione, la CISL con i vetri, la casa di vetro, però all'interno di tutto quello che è sistema pubblico è denunciato da tutti, compreso noi, quando andiamo all'interno della sanità rubano, all'interno del pubblico rubano, negli appalti rubano. Ma il sindacato sulla corruzione ha un progetto, vuole intervenire, vuole discuterne, non ce l'abbiamo. Abbiamo i 10 punti dell'Europa, abbiamo il referendum sulla riforma del fisco, ma la corruzione è quella lì che certamente, parliamo di Europa, quindi deve essere. L'Europa è importante, cominciamo a discutere se possiamo fare un sciopero comune cominciamo a parlarne adesso per farlo tra 20 anni. Però noi abbiamo anche la quota più alta di corruzione in Europa, sì o no? Allora, su questo io penso che dobbiamo discutere. Un'altra riflessione la faccio sull'occupazione. Guardate, io da poco, da parecchio che non frequento più le fabbriche, però all'interno delle sedi sindacali i disoccupati passano. Abbiamo mai discusso, messo in piedi una discussione, cosa fa la scuola pubblica nel momento che sforna diplomati, l'università, cioè integrata nel territorio? Cioè, se io abito a parlo di Novi Ligure perché vengo da Novi Ligure, c'è l'industria del cioccolato molto fiorente, cioè è inutile che io vado a fare un metalmeccanico che il metalmeccanico sta morendo. Cioè, allora sta sinergia tra necessità e scuola c'è mai stata? Discutiamo di questo, questo è importante. La scuola per noi è primaria. Se ai nostri figli noi gli insegniamo quello che necessita il territorio o necessita l'Europa, noi, i nostri figli, verranno sempre all'interno delle sedi sindacali a chiedere di lavorare oppure a fare la disoccupazione. Cioè, queste sono le sfide che noi dobbiamo fare e avere come sindacato. Giustamente qualcuno diceva, cambiamo gli occhiali. Sì, gli occhiali devono essere cambiati, perché come qualcuno ci ha detto alla nostra festa delle generazioni, non so, ci ha detto che la società è liquida, i partiti sono liquidi. Cioè, cerchiamo di non diventare liquidi, perché se noi diventiamo liquidi, finiamo. Ed è importante la raccomandazione. L'auto commiserazione non porta a niente. Grazie.